get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte e benvenute alla nostra 321esima trasmissione. Lo scorso 20 ottobre noi del CLR e del Kesbilè abbiamo avuto il piacere di presentare insieme all'autrice Margherita Giacobino il suo ultimo libro Ritratto di famiglia con bambina grassa. Quella che ascolterete tra poco sarà la registrazione sonora di questa presentazione, quindi un buon ascolto. Stasera presentiamo la sua ultima fatica, è edito da Mondadori ed esce nel marzo di quest'anno, marzo 2015. Il titolo intanto è già una promessa, una scommessa, Ritratto di famiglia con bambina grassa, e poi mentre ci addentreremo vedremo anche il perché di questo titolo così ricco e così lungo. Margherita, se vogliamo riassumerla ancora un po', e io sì vorrei, oltre ad essere scrittrice, regista, traduttrice, giornalista, perché si è cimentata in tanti ruoli, è anche, secondo me, un personaggio. Faccio anche le torte. Fa anche le torte, e questa è una promessa, è un'altra promessa importante. E però, al di là delle torte, è un personaggio, perché io voglio leggervi testualmente, perché me lo sono andata a cercare, mi sono presa la briga di cercarlo nel vocabolario, che cosa significa personaggio? Significa persona importante per grado gerarchico o per fama. Nella sua lunga carriera di traduttrice e di scrittrice, qui viene un altro aspetto fondamentale e importante che mi ha, a me personalmente credo che alla comunità e alle donne e alle lesbiche sia molto servito, ci ha fatto conoscere, traducendo, donne del mondo anglosassone, per esempio, e non solo, che diversamente, proprio per un problema tutto italiano, cioè noi non mastichiamo le lingue, e invece Margherita ce l'ha fatta conoscere attraverso tutta la sua opera di traduttrice. Ma l'altro elemento è la Giacobino, la Margherita scrittrice. La Margherita scrittrice ha scandagliato le identità, le soggettività del mondo delle donne e soprattutto delle lesbiche, e le modalità e i comportamenti che le lesbiche mettono in atto, sfoderando una ironia meravigliosa, dico, e che ha permesso appunto di parlare dei nostri modi di essere, delle nostre cose, dei nostri mondi, un po' troppo sommersi, ha permesso di vederli con un occhio diverso, con una ironia, una grandissima ironia, con indulgenza, ecco, la cosa che mi ha colpito nei suoi libri, nei suoi scritti, e che ritroviamo anche qua nella sua ultima opera, è questo occhio indulgente, che non significa che allora non prende sul serio o non affronta con serietà, o con la dovuta importanza, ma è un occhio indulgente che invece permette di fotografare, di portare alla luce delle realtà di vite vissute, le nostre vite, le vite reali. In questa autobiografia, in cui lei traccia l'epopea, l'etica della sua famiglia, ed è, lei lo spiega, in parte romanzata, nel senso che in parte lei ha dovuto ricostruire cose che non sapeva, ma che ha potuto raccogliere attraverso altre fonti. Lei cita internet, mentre come quando cita dice Wittig, per esempio, andare nelle biblioteche. Bene. E poi la sua storia più recente, che si avvicina attraverso la prozia, attraverso la madre e via discorrendo, no? Ma mette a nudo tutti i fatti e i misfatti, così come ha fatto negli altri libri, così come ha fatto nei suoi romanzi, lo fa anche in questa sua autobiografia, o in questa biografia romanzata, come preferisce. Questa è Edita della sua famiglia. E così come, se mi consentite, questi altri libri, L'Americana a Parigi, Le Pioniere del Sesso, ma via via, tutti quelli che li abbiamo letti, Marina Marina e tutti gli altri, sono delle sorte di biografie collettive in cui tutte noi ci siamo ritrovate. Questa, ancora una volta, pur raccontando la storia della sua famiglia e cercando le sue radici un po' alla Punta Quinti, diciamo così, beh, nonostante tutto, anche questa è una biografia collettiva, perché ne parlavamo prima quando ci siamo trovate, alcune esperienze delle donne, molto di frequente, sono è come se ci fosse un filo conduttore, e queste esperienze le ritroviamo attraverso le nostre storie familiari e quelle che ci sono state raccontate. E Margherita in questo libro lo fa magistralmente. Allora, la prima domanda, quindi, c'è continuità tra i lavori precedenti e questa tua ultima opera? Beh, dunque, innanzitutto grazie che mi avete invitata, io sono sempre molto contenta di venire qui. Mi sento lusingata, mi sento anche in vacanza, perché a Roma sono anche in vacanza, quindi non sarò molto seria. Allora, grazie che mi chiami per cognome, bellissimo, e il mio essere chiamata per cognome è una specie di santificazione. Sottrarre il cognome al portatore di cognome, che è il maschio, insomma, no? Benissimo. E anche senza articolo, mi sembra benissimo, è tutto questo, no, perché il linguaggio è importante, come diceva, hai citato tante cose, hai citato tutto un mio percorso, hai citato tante mie amiche, diciamo amiche, le chiamo amiche in questo contesto, non sono qua a smentirmi. Per esempio Wittig diceva che appunto noi abbiamo bisogno di miti, e che il linguaggio serve anche a costruire, se il linguaggio è importantissimo, il linguaggio è politico, e il linguaggio serve anche a costruire questo. Allora, sì, certo che c'è continuità. Certo che c'è continuità. Allora, innanzitutto devo dire, questo è un libro che ho scritto per me stessa nel modo più assoluto e più totale, e quindi mi sono presa anche delle licenze poetiche in tutta una serie di momenti. L'ho scritto per me perché mi è venuta fuori l'esigenza di raccontare a me stessa, raccontare in generale delle storie della mia famiglia, e forse di non lasciar morire del tutto delle persone che erano già morte o che stavano morendo, perché in questi anni in cui l'ho scritto, che sono stati parecchi anni, quest'ultimo decennio, stavano morendo anche i miei genitori, quindi diciamo tutto questo passato in blocco poi non c'era più. E perché mi serviva molto, perché ho sempre pensato, e più vado avanti, più divento vecchia, lo penso, che noi siamo anche il prodotto di quelli che ci hanno preceduto, che non veniamo su come i funghi dal nulla, ma veniamo su in maniera, però non deterministica, nel senso che non è che dico sono così perché, no, ma io in me stessa mi conosco nel momento in cui riesco anche a vedere che cosa mi hanno dato, sia in positivo sia in negativo, cioè come mi sono modellata in positivo o in negativo, come ho ereditato o rifiutato, come ho reagito o non reagito, rispetto alle persone e alle situazioni che mi hanno preceduta. Mi è stato un percorso molto molto personale questo qua, che è nato nel momento in cui mi hanno chiesto di scrivere un racconto su un elemento, era un libro che raccoglieva racconti di donne sui quattro elementi, la terra, l'aria, l'acqua e il fuoco, e io improvvisamente ho pensato scriverò un racconto sull'aria, e l'aria per me era l'aria luce, cioè il titolo del primo racconto. Giustamente mi hanno detto già le persone che è vero, sono dei racconti, questa è stata una delle cose per cui io anche dubitavo, no? Nel momento in cui sono dei racconti, però in realtà sono parte di un'unica storia. E, sono dei capitoli. Sono dei capitoli, ecco, sono dei racconti che diventano anche capitoli di una storia, e in cui c'è stato anche un momento di particolare soddisfazione, che è stato quello finale, in cui io li ho anche attaccati assieme, come si attaccano assieme i patchwork, no? Allora, tu hai i pezzi, poi però l'attaccarli assieme non è un semplice cucire insieme i pezzi, ma è di nuovo un lavoro per fare altri motivi, costruire altri motivi attorno al motivo principale. E questo è stato il momento forse più bello, quello in cui ho visto che riuscì, cioè che i tempi si agganciavano. E anche è un libro sul tempo, perché a un certo punto nella vita ti fai anche questa domanda, cioè ti fai queste riflessioni sul tempo, il tempo che passa, che cosa porta con sé e che cosa ti porta via. Ed è anche un momento in cui ho ricercato, per esempio, la continuità, nel senso che la continuità c'è anche nel fatto che io sono andata cercando questo libro, le radici della mia rapporto con il comico. Questa è una delle cose che ho fatto. Ci ho messo molti anni, perché non è così facile, non so voi se vi danno un librino di istruzioni, quando venite al nonno e dicono te funzioni così, sei fatta così, a me non me l'hanno dato, me lo sono dovuto un po' ricostruire. E io mi sono resa conto che innanzitutto nella mia famiglia già la gente praticava una forma di linguaggio, quello che io così definirei un humor di sopravvivenza, nel senso che serviva per sopravvivere, nel senso che partendo da situazioni di penuria, di miseria e di disgrazia ci si rideva sopra e sembrava tutto già subito un pochino meglio, no? E questa era una pratica comune nella mia famiglia, ma non solo, cioè, la gente era abituata a scherzare un po' su disgrazie, no? E appunto mia madre mi diceva, noi manca sempre una solta che la lira, che tradotto in italiano significa ci mancano sempre 19 soldi a fare la lira, risalendo all'epoca in cui una lira aveva 20 soldi. Quindi era un modo di quantificare la povertà, ma molto, cioè, insomma, che... questa era una cosa. E poi nella mia famiglia in particolare c'erano state due persone, sia da parte paterna sia di parte materna, che erano portatrici di questo germe, di questa portatrici sane o non sane, non lo so, perché in effetti proprio di tanta salute non hanno goduto, ed era la mia nonna paterna e questa zia di mia mamma, che io non ho mai conosciuto, che però mia mamma me ne parlava sempre come di una donna che prendeva in giro, che scherzava, che rideva, che cantava. E portatrici di due aspetti diversi del comico, io mi sono vista, ho detto, ma allora io sono così, cioè, anche mio padre era portatore di questo, ma l'aveva ricevuto da sua madre. E, cioè, mi ci sono vista, no? Ho capito, insomma, è stato, come dire, sì, scusa Margherita, e poi tu quello che hai detto rispetto, ne parlavamo prima, che Michin, la tua prozia, che tu non hai conosciuto, di cui ti parlava tua madre, era quella che aveva la battuta, quindi sì, era quella che con il linguaggio sapeva tirava delle cannonate sulle situazioni e le persone. Mentre la tua nonna Maria paterna, perché hai probabilmente una nonna Maria materna. Era una che andava ai funerali, poi dopo tornava a casa, c'erano queste due sorelle, erano quattro sorelle, due di queste vivevano assieme, cinque erano, cioè, ma quattro erano grasse e lei era magra. Due di queste sorelle vivevano insieme, e perché erano Polonia e Giulia, con un marito solo, nel senso che Giulia era rimasta vedova molto giovane e, come si usava allora, si era trasferita presso un'altra sorella sposata. Loro abitavano in questa casa, queste due signore grasse, che gli piaceva molto la buona tavola, e si muovevano poco, soprattutto negli anni di avanti. E allora invece mia nonna era sempre madre dell'occio, un pontopolino che sfrecciava quella, era una contadina. Lei apparteneva a una classe sociale diversa rispetto alle sue sorelle, loro erano piccolo borghesi, lei era contadina. E allora lei andava ai funerali e faceva andava in una scoperta e poi arrivava a casa e gli raccontava i pettegolezzi del paese, questo qui è morto, quello si è sposato, quello lì ha litigato con quell'altro, e faceva la mimica e loro si sganasciavano, no? Quindi c'era questo momento in cui la morte e il comico si univano in questa figura di mia nonna, che era una donna molto dolce, molto tranquilla e molto sacrificata, che però aveva questo suo, come dire, in parte era sicuramente una valvola di sfogo, in parte era un'arte che esercitava, di cui spero sia stata, perché sono vite che quando ci penso molto oscure, vite che hanno molto difficili, sì. E allora se ti posso, possiamo riprendere proprio questo aspetto delle vite delle donne difficili. Questa biografia, questa autobiografia o questa biografia che nasce da lontano e approda a Margherita parla delle donne prevalentemente ed è quindi la linea conduttrice di tutta questa opera di Margherita, o Giacomino se preferisce, è le donne portano il filo della narrazione. Margherita fa portare il filo della narrazione alle donne, a queste donne, e però questo è. Tanto è vero che la narrazione è romanzata, no? Però arriva a diventare in fondo un'autobiografia vera e propria. Quindi è un romanzo, è una biografia, è un'autobiografia, è la narrazione di una vita, è la narrazione di più vite, è un romanzo corale in qualche maniera. E vi leggo soltanto un pezzettino dalla sempre, questa volta dal romanzo, da quello che trattiamo stasera, e che parla, aspetta un attimo, sto sbagliando, 39, scusate. Allora, che parla proprio di queste prozie, che poi le chiamerà le magne, no? Che in torinese è... Si chiamavano così. Era un titolo di rispetto da... come in Africa mica ti rivolgi a una donna chiamandola, che ne so... Cicibella. La chiami con un nome che indica un suo status. Certo. Un suo status, cioè ci sono dei titoli di rispetto che si danno alle donne in una certa... cioè in Africa, voglio dire, presso certe... popolazioni, comunque presso le popolazioni arcaiche primitive, quali erano quelle da cui io discendevo, che tre generazioni fa erano arcaiche primitive, adesso un po' meno, ma non tantissimo qui in Italia. E, comunque le donne di una certa età, che non fossero tua mamma, e soprattutto se erano imparentate con te, erano le magne. È quello che invece da mio padre si chiamavano zio e zia. Tutti gli estranei adulti, poi Magna e Barba erano corrispondente nella mia lingua. Esatto. Allora, quindi le tre magne che sono Ninin, che Margherita conoscerà, Maria, che sarà la sua nonna, e non era una magna in quanto era nonna. Era nonna, certo. E Michin, che è l'altra magna che lei non conosce, ma che alberga dentro Margherita, ce l'ha detto poco fa, che vivono ancora nei picchi, ancora nei bricchi anzi, quindi nell'altra montagna, eccetera, sognano con l'arrivare del nuovo secolo, badate, non il 2000, il 1900, perché noi sognano dal 1800, entrando nel nuovo secolo sognano di poter vivere insieme da bambine, era il loro sogno da bambine, e di lavorare insieme e di abbandonare quindi quel luogo ostile per loro. E così dice Margherita mentre racconta di loro. Al nuovo secolo appena cominciato non chiedono altro che di lavorare insieme e a forza di fare e sperare questo sogno si avvererà, darà un'impronta a tutto il resto delle loro vite. E poi a quello della loro figlia, ne avranno una sola tra tutte e sarà mia madre e fine alla mia. Se queste donne non fossero state come erano, io non ci sarei, o sarei un'altra cosa. La loro figlia verrà dal mare molti anni dopo, ma è come se si preparassero già adesso, da bambine, ad accoglierla. E come è anche molto poetico, no? Questo, c'è una grande poetica nelle parole di Margherita, e che troviamo molto spesso all'interno del libro. No? Ed è quello che ha detto. Il filo conduttore sono queste donne, e ce ne saranno tante altre, no? Sì. Sì, ho cominciato a raccontare la storia di queste donne partendo da Ninin, che era la capostipite, la più vecchia delle sorelle, che è stata la mia prozia che mi ha allevato, insomma, in casa. Anche noi praticavamo questa forma di famiglia allargata, plurigenerazionale, cioè c'era mia mamma e mio papà, vivevano con la mia nonna materna e la sua sorella. E quindi era mio padre che si era inserito in una situazione matriarcale, no? Quindi avevano un po' rovesciato, perché era un po' maltollerato, peraltro, che aveva un po', sì, effettivamente era sottoposto a critica soprattutto da parte di Ninin, che era questa scamaglia. E quindi ho cominciato col raccontare di lei da bambina, cioè le ho prese da bambina. È stato in questo racconto l'aria d'us. Io ho immaginato come era una cosa, ecco, questo lì interviene l'immaginazione, un episodio di lei a 7 anni, quando sua mamma se ne va a fare la migrante, i genitori partono come migranti stagionali in Francia. Per il resto però, in effetti, io ho raccontato i fatti così come erano, cioè mi sono presa la grande libertà di raccontare il vero, cioè di giocare con la... con il dato di fatto, con la realtà, nel senso che tutti i nomi, tutte le date, tutti i luoghi sono assolutamente rigorosamente veri, gli avvenimenti che racconto sono tutti veri. Poi è chiaro che il colore e la forma con cui io li racconto, e questo è il lavoro della scrittura, perché non, le cose che tu vieni a sapere ti sono sempre dette, spesso dette in famiglia in maniera molto sintetica, no? E allora tua madre tornò all'età di 8 anni, aveva 8 anni, tornava dall'America, insomma, e però non ti viene detto, tu puoi anche ricostruire, puoi anche sapere la data precisa, ma non ti viene detto che giornata era, che cosa ha detto lei appena arrivata, cosa hanno detto gli altri, cioè questi sono gli elementi in cui gioca l'immaginazione, e questo è quello che diventa scrittura, insomma. Ed infatti, proprio visto che ha citato proprio quel pezzo, è proprio sulla, anche questo è un pezzo poetico molto bello, di Ninin, la magna Ninin, che quando era bambina, proprio per la grande povertà, la gente della montagna torinese emigrava molto spesso, e spesso erano lavoratori, lavoratrici stagionali, che quindi andavano per una stagione in paesi, in Francia nella fattispecie, perché era al confine, i paesi forse più ricchi o forse con più lavoro, con più possibilità. E Domenica, che è la madre di Ninin, e il papà, che mi sembra si chiamasse Bartolomeo, anche lui era un Bartolomeo, non mi ricordo, vabbè, comunque Domenica, che è fondamentale, insieme al marito, partono per la Francia per lavorare. E Ninin, che è la bambina più grande e che si occupa quindi delle altre due sorelline, Maria e Michin, ha la grossa responsabilità delle sorelle e deve sopravvivere in un ambiente assolutamente ostile con una nonna che sicuramente non le appoggia, comunque non le protegge, loro devono lavorare, punto. E Ninin sogna sempre che la mamma torni. E qui viene questo pezzo bellissimo. Ninin si alza e se ne va sulla porta, è il tramonto. E nel cielo c'è una striscia grigio rosata. È il colore della Francia, solo più pulito, senza il fumo della stufa. La Francia è da quella parte, lo sa, perché quando sono partiti è di lì che andavano. Andavano verso le montagne più alte per poi scendere sull'altro versante. E di colpo Ninin capisce che oltre questi bricchi ci sono altri bricchi. Oltre i paesi, altri paesi. Oltre queste capre, vacche e pascoli, altre capre, altre vacche, altri pascoli. Fino alla fine della terra, che sarebbe il mare. Mare. La stessa parola che lei usa per chiamare sua madre. Come sono strane le parole. È bello. Sì, questo è stato il primo racconto che ho scritto. Ho immaginato questa bambina di 7 anni, io l'avevo conosciuta, quando io l'ho conosciuta, lei ne aveva, aveva l'età che ho io adesso, cioè lei era, poteva essere mia nonna, era, era di fatto la sorella più anziana di mia nonna. E quindi io l'ho conosciuta vecchia, poi i bambini tutti, tutti grandi sembrano vecchi, ma io l'ho immaginata bambina. E ricostruendo da quello che lei mi diceva, ho immaginato anche la paura che doveva avere quando la mandavano da sola a pascolare la capra, magari con la sorellina, badare alla sorellina la capra, eccetera. Lei mi diceva sempre che a 4 anni guardava già la sorella più piccola e poi le facevano sbucciare le patate, quelle patate piccole, perché lei, essendo piccola, aveva i ditini da bambina. Cioè, insomma, erano queste vite al mutuo rebelle, insomma, al mondo dei vinti. Ci sono dei libri bellissimi che ha scritto Revelli sui contadini del Piemonte, non la mia zona, ma appena più in là, comunque i fatti poi erano quelli. E io infatti mi sono molto ho ritrovato proprio quell'ambiente lì, che era un ambiente rozzo e selvaggio, era un ambiente barbarico, era primitivo, succedevano le cose tremende, c'erano di tutto, gli succedeva botte, violenze, incesti, aborti clandestini, stupri, cose di ubriachezza, non ne parliamo. Quindi quello che poi scatta nella testa di queste donne, mi è stato chiaro che come mi veniva raccontato, ma come io era proprio un desiderio di emancipazione, di libertà, che prendeva corpo per queste donne nell'essere insieme loro sorelle, no? E mi sono resa conto di un fatto che avevo vissuto, in cui ero stata in mezzo, ma che sia la mia famiglia paterna sia la mia famiglia materna avevano alla loro base nuclei di sorelle che erano rimaste sempre insieme, no? E quindi mi è sembrato, insomma, particolare, mi è sembrato estremamente importante per me. Parlando sempre di poetica o di epica, eccetera, c'è un altro pezzo che vorrei leggervi, proprio appoggiando questi aspetti, e che è il viaggio di Maria Bambina, Maria che torna, quindi la figlia di una delle tre sorelle, appunto di l'altra Maria, che è la nonna materna, si sposerà. Rispetto alle tre che rimangono zitelle, come si diceva un tempo, cioè decidono di non sposarsi perché sanno che cosa significa avere un marito, cioè botte e lavoro quadruplo, quintuplo, eccetera, cioè non è necessario. Maria, che è la seconda tra Nin e Michin, invece si sposa, e questa decisione è un po' strana, perché in realtà lei vive a Torino, è a servizio, insomma, le altre due sorelle sono in fabbrica, lei tutto sommato male non starebbe, no? Lì la padrona le dà anche le sue scarpe dismesse, che insomma sono sempre abbastanza buone, no? Quindi una condizione di vita sicuramente. Però tornando al paese, a una festa di paese, viene notata da questo energumeno, diciamo, questo mone, che sarebbe poi appunto il nonno, che vive in America, e che è tornato per degli affari, ma soprattutto perché vuole prendere moglie, ed è un uomo anche molto più grande. Insomma, si combina questo matrimonio. E Maria poi partirà, raggiungerà il marito, ovviamente non di certo a San Francisco o a New York, ma questo è un ranch che è tra l'altro una parte povera degli Stati Uniti, e Maria avrà una figlia. Avrà questa figlia, però Maria purtroppo, proprio durante il parto mi sembra, subito dopo ha un ictus sostanzialmente, quindi viene rispedita, la bambina rimane, viene rispedita dalle sorelle, e però purtroppo morirà anche questo padre, quindi questa bambina, che si chiamerà poi Maria Grazia, la mamma di Margherita, attraverserà, farà questo viaggio piccolina dagli Stati Uniti con la nave per 15 giorni, affidata al capitano della nave. E quindi Maria, ribattezzata Maria Grazia, così parlerà. al suo viaggio, no? Così penserà, no? Il viaggio è finito. Ormai si stende dietro di lei come un grande ponte azzurro e dorato sopra l'oceano. Un ponte di luce affollato di visioni, con le grida degli uccelli nel cielo, quel dolce ondulare della nave che è un po' come andare sul pony, un immenso pony dal dorso metallico vibrante, e l'orchestrina che suona la sera, il profumo delle signore sedute a prendere il tè sotto gli ombrelloni, il sapore nuovo dei biscotti Svego. Il mare grosso, con gli improvvisi scrosci d'acqua e le uniformi degli ufficiali in bordo con i bottoni luccicanti, le maniglie cromate, il vento salato, il tintinnio dei bicchieri nell'aria densa e calda della sala da pranzo. Tutto attorno il cielo ora profondo, di tanti diversi azzurri e striato di nuvole, ora bianco e uguale, infinitamente blu. Cielo e mare la sera si versano uno nell'altro. Non si riesce più a distinguere il confine e a volte, guardandoci, si chiede se si sta sospesi nell'acqua o nell'aria. E la notte si può sognare di volare in quella grande massa nera, umida, lucente, che è il cielo mare, mare cielo. Poi la mattina presto, prima che ci sia, ora che sia ora di alzarsi, dall'oblò si vede il sole spuntare come un frutto rosso che in un lungo istante matura espande nell'azzurro la sua polpa infuocata. E nel giorno pieno, se si ha fortuna, si vedono i salti dei delfini, i dorsi splendenti inarcati, che disegnano nell'aria curve di bellezza e di stupore, e tutti che dicono, oh, guardate, e anche Maria apre la bocca, ma non dice niente, la sua meraviglia risuona silenziosa dentro di lei. Io lì, che dire, tu hai letto questo pezzo? Grazie, è la prima volta che qualcuno legge. È un'esperienza strana quella di immaginarsi nella mente, nel corpo della propria madre bambina, no? Cioè una realtà che noi non vedremo mai, no? La madre bambina è qualche cosa che non ti sarà mai dato conoscere, che pure in qualche modo tu conosci. Questa è un'esperienza che ho fatto scrivendo. Io ho voluto raccontare le avventure che hanno vissuto, cioè loro hanno vissuto delle vite molto piatte, molto, molto lavorative, molto, apparentemente non gli è capitato niente, poi in realtà se andavamo a vedere gli sono capitate almeno una volta nella vita delle cose anche molto avventurose, e questo io ho cercato di raccontare, no? Così come ho raccontato il viaggio di ritorno di mia madre, beh, anche il suo matrimonio è stato avventuroso, ho raccontato il fatto che lei ha avuto quattro madri, in realtà, e questo padre che è morto quando lei era ancora molto piccola, e poi quattro madri. E ho raccontato il viaggio di mio padre non proprio volontario, insomma, quando l'hanno preso soldatino a 19 anni l'hanno deportato in Germania. Ho raccontato queste cose qua. E mi sono resa conto che probabilmente nella vita di tutti c'è questa grande dose di romanzesco, di avventura, no? E che chi scrive, che va sempre cercando delle trame, magari a volte ne hai proprio lì delle cose che sono importanti, che sono, no? Che sono oggetto possibile di narrazione. E tu prima hai parlato di biografia collettiva. Non lo so se la pensi come tu hai descritto tutte queste donne, le hai descritte così bene, poi vorrei parlare anche un attimo dei personaggi, e quando tu le descrivi escono fuori dalle parole scritte, io ho avuto la sensazione più volte di vederle in carne ed ossa davanti a me, nella descrizione. Era questo, io volevo fare un'operazione magica, come in fondo tutta la scrittura, soprattutto la poesia, sono operazioni magiche, vogliono ricreare la presenza, riportare la vita dove c'è la morte, sottrarci noi tutti quanti alla morte, quindi in effetti se ci sono riuscita sono molto contenta. Se tu le hai viste vive, io spero che loro vengano lì e si stupiscano di essere vive, si sentano. Una volta si dava ai morti, i romani davano ai morti il latte, il sangue degli animali sgozzati, gli davano cose, gli davano nutrimento, ecco, io gli ho dato le parole, spero che questo, perché pensavano gli antichi, i nostri, quei pecorai dei nostri antenati mediterranei, i greci, i romani, pensavano che i morti fossero approdati a uno stadio di esistenza larvale, quindi incompleta, sempre di meno, si sgretolava, cioè, certo. E quindi ne soffrivano, non pensavano che andavano in paradiso, che poi non pensavano quelle robe lì, che non penso neanche io, e pensavano a qualcosa che forse è più vicino al mio pensiero, cioè che man mano che si allontana, cioè si perde la vita, cioè, noi viviamo ancora un po' nel ricordo degli altri, noi viviamo qualcosa di noi sopravvive, non sono l'unica a dirlo. Avevo letto anche questo libro di Ostetta che dice esattamente questo, come noi proiettiamo anelli di pensiero attorno a noi, è uno scienziato, non sto battendo le querce, e, come si suol dire, i coperti noi proiettiamo attorno a noi anelli di pensiero, il nostro io si estende attorno a noi, no? Quindi anche quando il centro a un certo punto, come per le stelle, quando il centro muore, qualcosa della nostra luce, del movimento che abbiamo proiettato continua a vivere fino a quando, raggiungendo altri corpi, altri pensieri, altrimenti fino a quando poi si spegnerà. Ecco, in fondo io ho cercato di fare quello, la scrittura è anche quello, no? È quello ed è l'operazione che io ho voluto fare perché per amore, perché gli volevo bene, insomma loro me l'hanno voluto e perché mi sembrava importante in questo momento della mia vita. Ma io credo anche che sia poi una cosa che è dentro di te da tempo, quando io ti ho chiesto della continuità tra i romanzi di prima, le cose che tu hai scritto, i racconti e questo, cioè i tuoi personaggi sono sempre molto visibili, escono dalla scrittura, cioè io almeno ho sempre avuto questo tipo di impressione leggendoti, che i personaggi si prendono forma in qualche maniera. Late at night, I feel so lonely. There's a body next to mine, and I'm feeling cold. And baby, in the morning light, when I look at some stranger's eyes, it's really for your paradise. I dance, I sing, but there's something missing. So hard to make it right, but it always ends up the same. You know I need you, I need you like I needed you the first time we kissed. I need you and I need you now, and I can't resist standing by. You all through the day. I hate myself for hurting you. Yes, I know I drove you clean away. You know I need you. You know I need you. E vorrei tornare un momento sempre alla descrizione che tu fai dei personaggi, e al ruolo, al profilo di Maria, la nonna di Margherita, di Maria, la donna abbata. Una parentesi, molte delle persone di cui parlo si chiamano Maria, perché io vengo da un'epoca in cui Maria era un nome che si dava, come dire, il 50% della popolazione femminile si chiamava Maria. Allora, in quanto scrittrice, mi trovo davanti a questo problema: come far capire immediatamente di quale Maria sto parlando? Allora io le ho divise in Maria Copradona, che era la nonna invalida, Maria Bambina, quando parlo di mia madre, che poi diventerà Maria Grazia, quindi non si confonderà più, e Maria la Contadina, che è l'altra nonna. E così sono riuscita a dividere. Mi è costato parecchia fatica, perché ci ho messo molto a capire come proprio caratterizzarla. Allora, andiamo a Maria Povera Donna. E questo la dice lunga rispetto al filo conduttore, no? Come abbiamo detto prima, il filo conduttore sono le donne, e i profili che disegna sulle donne sono assolutamente veritieri. Se pensiamo, probabilmente ciascuna di noi ha nella propria memoria, nei propri ricordi, qualche personaggio di questo genere. Allora, descrivendo appunto Maria Povera Donna, che è una donna a metà, che ha avuto un ictus, che per anni non ha potuto vedere la sua figlia perché è rimasta in America con il padre, che è relegata ad un ruolo minore in casa, che poi scoprirà Margherita non essere tale, perché è la nonna che racconta, è la nonna che legge le favole, è la nonna che legge le storie dei santi, e che non è piaciuta soltanto a Margherita, ma anche poi ai gli amici di Margherita quando erano piccoli, quindi agli altri bambini. Le pesava la sua vita, quindi qui prima di sposarsi e poi dopo. Andare in servizio era normale per una donna della sua provenienza e generazione, e del resto anche in casa propria si era quasi tutte serve, del marito, della suocera, degli anziani della famiglia. Maria era una privilegiata. Fare la cameriera a Torino voleva dire dormire in un letto col materasso anziché sulla paglia, mangiare i tagliatelli al posto della poetta, portare le scarpe invece degli zoccoli e non avere il girone d'inverno. Forse voleva dei figli, sognava una casa sua con le sue lettole, le sue lenzuola, o in lei lavorava l'antica idea che una donna è incompleta se non si marita, come la minestra maritata era un piatto, no? Non voleva restare un piatto da poveri. Forse si vergognava nascostamente di quelle due sorelle irriducibili nel dire che no, di no a chi volesse svalicare la loro prima lealtà. O voleva aiutare la famiglia, sognava un benessere che emancipasse lei dal servizio e loro dal telaio, e questa parola, America, le suonava nelle orecchie come una canzone? Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare. Aveva desiderio di avventura questa mia nonna timida dagli occhi lucenti? Forse era semplicemente docile, come sarà sua figlia Maria, di bocca buona e di buona indole, inclina ad accettare quel che il destino le proponeva, a dire sì di sì anche a uno sconosciuto. Sai, tante domande mi sono fatta mentre scrivevo. Cioè, per esempio, perché lei ha accettato di sposarsi? Mi sono chiesta anche come ha fatto a tornare. Lei è andata in America da sola, perché il marito era andato lì, aveva fatto i documenti e poi le aveva mandato il permesso, quindi lei è andata da sola. Però lei è anche tornata da sola, una donna che aveva tutta la parte sinistra del corpo paralizzata. Io penso che lei sia, che qualcuno l'abbia accompagnata, che probabilmente ci fosse qualche altro migrante che tornava a casa e che mio nonno gli abbia detto di accompagnare sua moglie, perché non può, però immaginate comunque che vita doveva essere stata. Allora i viaggi in nave duravano tanti giorni, cioè pensate come deve essere. Sì, e poi le sue cose, per lei, i suoi bisogni, cioè. Sì, insomma, lei era in grado, di, diciamo, badare a se stessa, però si trascinava, no? Quindi aveva. Insomma, era una situazione molto pesante, ecco. Eppure tutte queste cose che sembrano epiche, come prima hai usato, erano all'ordine del giorno, no? Certo, però per oggi per noi è così. E poi trovarle tutte descritte e tutte in una sequenzialità, è questo, no? L'aspetto epico, direi, no? L'aspetto che. Ma se. Una mai tornava sola senza la bambina. Perché lei non poteva portare una bambina con sé, lei riusciva a stento a portare se stessa. e poi perché suo marito, mio nonno, le disse che sarebbe tornato anche lui non appena vendeva la casa. Il problema è che nel frattempo, mia mamma è nata nel 27, mia nonna è tornata in Italia nel 29 e lui non poteva vendere per molto, cioè si fermò in America per anni perché non poteva vendere in quanto che non aveva, cioè, le cose si erano svalutate, insomma. Continuerete, se avete ancora pazienza con i personaggi. Allora, Ninin, questa è quando torna la nipote, quindi quella che è Maria Bambina, che poi diventerà Maria Grazia, e la vanno a prendere la zia Margherita Lastramagna e la zia Michin. Ma che succede? Succede che Ninin, invece, che era una... molto legata al lavoro, che non si poteva sprecare, che andavano tutte queste persone, no? Lei è andata in fabbrica a lavorare, ma arrivava la nipote, arrivava la figlia quella, come prima abbiamo letto quel pezzo, no? Che sarebbe stata la figlia di tutte quante, la Maria Grazia, la Maria Bambina. E quindi ecco Ninina. E Ninina andava a lavorare e si portava il cibo, mangiare, no? Nell'interruzione. Oggi nella cartella da scolara non c'è la mela né il formaggio, perché stasera si fa festa e si mangerà, sempre che Ninin non sia troppo nervosa e non le si chiuda lo stomaco. A pranzo ha faticato a mandare giù il suo barattino di caffè e latte e se l'ho imposto, mangia Ninin che devi lavorare, anche la testa va lo sconto suo. Oggi è un giorno speciale, il filo si rompe più spesso, il caposquadra grida e per una volta lei gli gira le spalle, per non sentirlo, basta non vederlo. Oggi arriva la bambina, la penultima delle sue figlie putative, l'ultima sarò io. Lei la chiama così, filologicamente sbaglia, ma nella sua personale teologia ha ragione, perché così come Giuseppe fu padre putativo di Gesù, nel senso che non era figlio suo, che l'ha cresciuto lui, allo stesso modo Ninin, senza essere la madre carnale, cresceva i suoi fratelli e sorelle, e poi le altre generazioni, mia madre e me, più o meno con lo stesso sacro zelo con cui Giuseppe si dedicò al figlio di Dio. Non c'è motivo di pensare che quel giorno dell'aprile del 1935 lei fosse diversa da come io l'ho sempre vista, magra e vestita di blu o marrone, scarpe senza tacco, nero o marroni, e quando arriva a casa il primo gesto è quello di allacciarsi un grembiule con la pettorina fantasia provenzale sul blu o sul nero, spinto dalla voce. No, un po' diversa doveva essere, perché aveva solo 44 anni, e non portava ancora la dentiera, che in futuro la farà più bella, perché le darà i denti regolari, mentre i suoi erano stati sporgenti per quel palato deformato dalla primissima infanzia dalla vaccatrice. Lei era stata attaccata alla vacca perché la madre aveva perso il latte, praticamente. Chissà se ha mai pensato di avere qualcosa in comune con Romolo e Remo, anche loro allattati da una femmina non umana. E gli occhiali, li portava già gli occhiali cerchiati d'oro finto? I capelli radi del tifo che l'ha resa calda a 20 anni, su quelle dovrei scommettere, tirati come fili al telaio, riga e mezzo, e sulla nuca il Pucciù. Versione vernacola della crocchia, che nel suo caso era più grosso come il frutto eponimo, la nestola. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on.